ti ringrazio per la disponibilità, iniziamo la nostra conversazione. Elena, si inizia una nuova avventura? Una nuova avventura è proprio la parola più preziosa, perché a partire dalla nuova progettualità di Emilia Romagna Teatro abbiamo scelto un titolo, Del Guardar Lontano, che è una dedica al grande poeta Giuliano Scabia, che proprio lo spirito di avventura ci ha insegnato a non solo a seguire ma anche a comporre. E quindi le avventure saranno prima di tutto con gli artisti e le artiste che intrecceremo nella progettualità di produzione, di ospitalità, ma anche di progetti speciali per le città diffuse di ERT, e anche con i pubblici, i nuovi pubblici su cui faremo un lavoro importante. Quest'anno la stagione 25-26 compone più di 150 titoli, quindi più di 150 visioni attraverso, da un lato, la grande sapienza del teatro e fino a artisti affermati e affermate della scena contemporanea e fino alla nuova creatività. Questa è un po' l'alchimia con cui vogliamo segnare anche l'identità di ERT sempre più, l'intreccio forte, appunto, dalla sapienza del teatro all'innovazione. Avremo tante scritture anche riportate in scena, nel lavoro teatrale o nel lavoro anche di danza che segna questa stagione, quindi da testi del mito, la rilettura dei classici, fino a un rapporto molto forte che svilupperemo sempre più con la nuova drammaturgia a livello sia nazionale che internazionale. Il rapporto con la letteratura è molto forte, anche con alcuni grandi patrimoni del teatro, dico un nome, Edoardo De Filippo su tutti, ma anche altre pagine importanti che spalancheremo. Molte saranno le presenze internazionali, da un lato riproporremo con forza e anche con rinnovata identità Vie Festival, che è stato un festival pionieristico anche nella storia di ERT, che vogliamo sia pionieristico anche nel futuro di ERT, e tante presenze anche internazionali, dalla compagnia belga Pippin Tom al lavoro assolutamente da seguire di Alberto Cortés e tanti altri con cui, insomma, sul programma il pubblico, gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno trovare e seguirci. Abbiamo deciso, ecco, di aggiungere una forma di complicità con alcuni artisti e artiste in particolare, da un lato con Pippo Del Bono e Kepler 452, che sono, diciamo, gli artisti identitari anche non solo per la storia ma anche per il futuro di ERT, e con alcuni artisti che chiamiamo di casa, che insieme all'avventura è un'altra delle parole quanto più importanti oggi per il teatro, per dirci di quella qualità con cui vogliamo accompagnare e sostenere i percorsi. E quindi da Roberto Latini a Fanny Alexander, a Giorgina Pia, a Danio Manfredini, a Lisa Ferlazzo Natoli, a Davide Iodice, per dire i primi con cui abbiamo avviato i dialoghi e con cui, insomma, di avventure ne faremo anche insieme ad altri. Il programma si arricchisce anche di tanti progetti speciali che entrano appunto nelle città. L'ho detto più volte, noi lavoreremo sul senso anche di un teatro pubblico, che è una parola tutta attaccata per me e per noi, sul senso di teatri per le città e non nelle città, e quindi con un senso di dedica e di lavoro condiviso anche con le comunità, e lo faremo con passo minuto nelle città e contemporaneamente con sguardo gigante, non solo in un rinnovato protagonismo nazionale ma anche in uno slancio internazionale sempre più forte. Grazie Elena, buon lavoro. Grazie di cuore. E ci vediamo a teatro. Certo. Grazie a te.